il Papa è malato e la prima notizia del telegiornale riguarda il suo stato di salute. Il conduttore dell'edizione di Mezzasera, siamo su Rai 3, ma potrebbe essere qualsiasi altro canale, ci guarda con aria compunta e ci comunica che la crisi è stata superata. E poi, adesso, aggiunge con un guizzo d'allegria, adesso vi passo il nostro, il nome e il cognome non vi ricordo, vi passo il nostro tal dei tali che sta al buio e al gelo fuori dal Policlinico Gemelli. E infatti, in diretta dal marciapiede antistante il noto ospedale, appare sul nostro schermo il solito giornalista ben pettinato col suo bravo giaccone tecnico dal bavero rialzato, che sbuffando nuvolette di vapore a prova di quanto freddo faccia davvero laggiù, ci conferma che il Papa, grazie al cielo, sta molto meglio. Perché quel poveretto, il giornalista dico, non il Papa, perché quel poveretto debba sottoporsi a tanto disagio non è chiarissimo. Il Gemelli, con tutti i pezzi grossi che ospita, è indubbiamente provvisto di una sala stampa ben riscaldata. Se quell'inviato se ne sta fuori al buio e al gelo, è perché ha deciso, lui o chi per lui, che è meglio così. Suppongo che si tratti di una scelta dimostrativa, nel senso che serve a testimoniare come nessun ostacolo, nessun disagio possa impedire ai nostri intrepidi colleghi di fare il loro dovere. Ma sì, d'accordo, ma di quale dovere esattamente si tratta, insomma? Di quello di dare notizie, sì, ma la notizia importante, cioè che il Papa sta meglio, ce l'ha già data il conduttore da studio. Di altro, in termini informativi, non abbiamo bisogno. Per quanto il meschino, il giornalista sempre, per quanto il destino, il meschino resti a barbellare al buio fuori dall'ospedale, non potrebbe aggiungervi nulla di significativo. Il Papa sta meglio e se Dio non voglia si scatenasse una crisi, i medici non si precipiterebbero certo in strada a comunicare la notizia in diretta. Almeno si spera. Eppure, in questo preciso momento, sui televisori di tutto il mondo, una quantità di giornalisti di ambo i sessi, variamente agghindati e debitamente compunti, stanno annunciando in diretta da analoghe postazioni all'aperto che di notizie non ce ne sono. Per l'occasione, i colossi del ramo hanno fatto uno sforzo speciale. La CNN, a quanto riferisce Repubblica, ha mandato da Londra 20 persone in rinforzo della redazione romana. La BBC ne ha in loco 35, è giunta una squadra dalla Grecia e una dal Borneo. Apicom, che per prima ha dato in diretta la notizia del ricovero, Apicom ha schierato 12 elementi aggiuntivi. E del resto non è un mistero per nessuno che tutte le televisioni hanno affittato da anni ogni tetto e terrazza con vista sul Vaticano. Il presidio della RAI, per la precisazione, è a Borgo Angelico, a due passi da San Pietro. E si dice che i principali network americani abbiano affittato da tempo immemorabile l'accesso al satellite per i primi 10 minuti di ogni ora per poter essere in grado di trasmettere subito. Siccome anche i giornalisti ogni tanto provano un po' di vergogna, né l'articolista di Repubblica né altri specificano che cosa debba fare tutta questa brava gente. L'unico commentatore che ha fatto un'ipotesi in merito è stato, che io sappia, Filippo Gentiloni sul Manifesto, ma lui non conta. Anche perché che cosa stiano facendo lo sappiamo tutti. Stanno aspettando che l'augusto paziente, se non oggi, domani, e se non domani, dopodomani o qualche altro giorno, tolga definitivamente il disturbo. La gara tra i network, quello che giustifica l'affittanza di terrazzi e la prelazione di satelliti, è a chi sarà il primo ad annunciare al mondo che il Papa è morto. E anche se la crisi per ora è stata superata, è poco ma sicuro che da lì, finché il pontefice sarà ricoverato al Gemelli, non li schioda nessuno. Fa un po' impressione, fa un po' impressione anche in questi tempi duri l'idea di tutta questa brava gente in trepida attesa della morte di un vecchio malato, come gli avvoltoi nelle vignette o gli eredi cattivi in un feuilleton ottocentesco. E visto che morto un papa se ne fa notoriamente un altro, pensate quante altre persone stanno aspettando con tanta ansia, quali preoccupazioni circhino i vertici della Chiesa, che trame si stiano tessendo, quali alleanze si stringano, che promesse vengano scambiate. In Vaticano, si sa, la campagna elettorale è in corso da anni. questo, ma in Vaticano in fondo fanno il loro mestiere e gli interessi dei vari prelati si possono considerare legittimi. Su quanto sia legittimo l'interesse della stampa e dei mezzi di comunicazione sul fatto che anche loro stiano facendo soltanto il proprio mestiere, beh, forse è giusto avere qualche riserva in più. Il diritto alla privacy spetta a tutti, anche al Papa, e per quanto concerne il pubblico, la grande comunità dei fedeli, chi si interessa comunque alle cose della Chiesa, poco dovrebbe importare che ricevano la notizia in diretta da un abbaino con vista sui palazzi apostolici o più canonicamente attraverso un comunicato dell'ufficio stampa del Vaticano, che certamente non tarderebbe più di qualche minuto. La logica dell'informazione spettacolo, come noto, ha definitivamente travolto quella dell'informazione informazione. Da quel punto di vista, l'inviato al freddo sul marciapiede, i suoi colleghi appostati sul tetto, sono protagonisti allo stesso titolo dell'uomo che giace malato all'ultimo piano. Un'occorrenza luttuosa quanto si vuole, ma naturale, ahimè, e affatto prevedibile purtroppo, assunta un valore mediatico assoluto, a prescindere da ogni considerazione di opportunità, coerenza o necessità informativa. L'obiettivo non dichiarato, è ancora una volta quello di spacciare l'inevitabile per imprevisto, l'ovvio per sensazionale, a costo di passare, stavolta, sul cadavere del diretto interessato. La vera notizia, quando sarà data, non sarà quella della morte del Papa, ma quella di chi per primo ha dato la notizia della morte del Papa, che è un bel esempio, diciamolo pure, di autoreferenzialità pura, di disinteresse o di disprezzo per i propri compiti istituzionali. Quanto al Papa, bisogna dire che un po' se l'è cercata, eh? Nella grande scommessa ideologica della sua carriera, ha giocato fin dall'inizio la carta dell'immagine pubblica e si è dato coscientemente in pasto alle folle con i suoi viaggi, i suoi messaggi, i suoi interventi, le sue stesse sofferenze. Ha identificato così strettamente la funzione pontificale con la persona e il personaggio di Carlo Wojtyła da non lasciare nessuno spazio a ogni possibile discrezione. Lo fanno tutti, eh? È il prezzo che oggi deve pagare chiunque aspiri a una posizione di preminenza nel suo campo, dalle ultime veline al Presidente degli Stati Uniti. Ma la bagarre di questi giorni ci mostra come da quella posizione di preminenza sia sin troppo facile precipitare, riducendosi da soggetto a oggetto, da protagonista a comparsa, da potente a vittima come tutti. Anche quello dell'informazione è un mercato e come tutti i mercati è indicibilmente crudele.